giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sale a oltre un miliardo l'ammontare dell'assestamento di bilancio, più di 250 milioni in più rispetto all'anno precedente. Acqua Pradis di nuovo in bottiglia, dopo uno stop lungo 3 anni, inaugurato in Val d'Arzino il nuovo impianto. Saldi al via domani anche in Friuli Venezia Giulia, pronti a rispettare le nuove regole, dice Confcommercio Federmoda. I centri estivi a Trieste, 29 in tutto le strutture comunali che accolgono più di 7.000 tra bambini e ragazzi. Calcio, l'ex azzurro Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, e la triestina diventa americana. Zucchero protagonista anche stasera a Trieste. Inizia invece nei suoni dei luoghi, la musica nei siti più belli del Friuli Venezia Giulia. Alle 12.31 e 21 secondi ancora buongiorno da Rita Miccoli e Daniele Lettig per questa seconda edizione del GR del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ed ecco la linea a Lillo Montalto Monella da Udine. A metà giugno la manovra estiva di bilancio valeva 652 milioni di euro. Meno di un mese dopo, trascorso a rivedere i conti e reperire ulteriori risorse tra le pieghe di bilancio, il disegno di legge dell'assestamento di bilancio supera il miliardo, 1 miliardo e 79 milioni per l'esattezza. Di questi sono già stati allocati 873 milioni. A titolo di paragone, nel 2022 la manovra estiva toccò gli 812 milioni. L'anno precedente ci si fermò a 370 milioni. A presentare i numeri in consiglio regionale l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Il documento tuttavia non tiene ancora conto degli ultimi emendamenti presentati. La discussione è ancora in corso. Il 2022 si chiude con un avanzo complessivo di oltre 3 miliardi. Quello libero ammonta a oltre 912 milioni. Incremento riconducibile al generale aumento delle entrate tributarie non solo in Friuli Venezia Giulia ma in tutto il territorio nazionale. Tra le principali voci di spesa citiamo 100 milioni garantiti a titolo di prestito Autostrade Alto Adriatico per la sua patrimonializzazione, soldi che verranno restituiti nel 2024, 137 milioni per lo sviluppo di Porto Vecchio, poi 50 milioni per la messa in sicurezza del territorio dalla fragilità idrogeologica, 65 milioni per la sanità, 15 milioni di euro per la creazione di comunità energetiche, quasi 15 milioni di euro per permettere lo scorrimento della graduatoria sul bando del fotovoltaico per le imprese, 20 milioni destinati agli enti locali per far fronte all'aumento dei costi dei lavori pubblici e infine oltre 23 milioni di euro destinati all'ente di decentramento regionale per l'edilizia scolastica e territoriale e la manutenzione della viabilità. Come avete sentito, il servizio era sul bilancio dell'assestamento di bilancio del Consiglio regionale. Passiamo ora a un altro argomento. In Val d'Arzino entra in funzione il nuovo stabilimento dell'Acqua Pradis, che è tornata ad essere imbottigliata dopo uno stop durato 3 anni. Mi hanno detto che qui c'è un'acqua buonissima che sgorga dalle sorgenti da 50.000 anni. Chissà che vada avanti altri 50.000. Lo stabilimento dell'Acqua Pradis in comune di Clauzetto è tornato in funzione dopo 3 anni di stop grazie all'imprenditore veneto Bruno Zago, che qui ha investito oltre 2 milioni di euro per il rinnovamento dell'impianto. Noi pensiamo di fare 30 milioni di bottiglie all'anno, sicché 2 milioni e rotte al mese. Tutto dipenderà dallo spazio. Obiettivo è triplicare lo stabilimento affiancando anche una linea di vetro. C'è da fare l'ampliamento, c'è da fare ancora le modifiche, c'è da mettere la linea del vetro. L'ordine di investimenti previsti penso che si andrà a 7-8 milioni. Al momento sono state reimpiegate 3 persone, ma altre potranno trovare lavoro qui. Se saremo bravi a vendere, speriamo di andare anche a 2 turni, sicché raddoppiare il volume di lavoro sarà un percorso di qualche anno. Clauzetto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sulle risorse idriche è necessario portare all'attenzione dell'Europa una posizione coerente, quella di strutturare una gestione condivisa ma non uguale per tutti i paesi. A dirlo ieri a Roma è stato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier, che ha partecipato all'assemblea annuale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, cui aderiscono 142 enti consortili. Zanier era ricordato come il Friuli Venezia Giulia, sia tra le regioni ad aver attuato pianificazioni di lungo periodo sul fronte della prevenzione delle emergenze idriche, stanziando fondi strutturali per interventi sui corsi d'acqua a rischio inondazione in caso di piene e per la realizzazione di invasi di raccolta dell'acqua da utilizzare nelle situazioni di siccità. Iniziano domani, anche in Friuli Venezia Giulia, i saldi estivi. Le imprese associate sono pronte al rispetto delle regole, dice Alessandro Tollon, presidente provinciale per Udine e regionale di Confcommercio Federmoda. Dal 1 luglio, infatti, sono entrati in vigore i contenuti della direttiva Omnibus dell'Unione Europea, che rende più rigide le regole su pratiche sleali, false recensioni, saldi e vendite promozionali. La normativa europea, recepita in Italia con decreto legislativo nel marzo scorso, mira a contenere i comportamenti ingannevoli e a tutelare i consumatori. Da subito è necessario adeguarsi all'obbligo di considerare come prezzo di riferimento nell'annuncio di sconto il prezzo più basso praticato dal venditore nei 30 giorni precedenti, ricorda Tollon. Il rischio, altrimenti, è quello di sanzioni da oltre 500 a più di 3.000 euro. Quanto al via dei saldi, sottolinea il presidente di Confcommercio Federmoda, la partenza a metà settimana è inconsueta, ma contiamo sia la premessa di un lungo fine settimana di sconti su merce di qualità a vantaggio della clientela. E adesso parliamo di centri estivi e di ICRE estate. Sono 29 in tutto le strutture comunali che a Trieste accolgono più di 7.000 bambini e ragazzi per tutta l'estate. Luoghi di crescita dove divertirsi insieme, lontani dagli schemi. Sentiamo. Ci sono gli irriducibili del campo da calcio, quelli che preferiscono giocare a basket, e sono continue le sfide al biliardino, c'è chi preferisce invece la calma di una bella partita a scacchi. Molti hanno scelto di partecipare a una delle gite che quotidianamente gli educatori organizzano al mare e non solo. Siamo al ricreatorio Lucchini di via Biasoletto a Trieste, ma la scena è un po' la stessa in tutti e 13 ricreatori della città e nei 16 centri estivi comunali, luoghi di divertimento e di crescita, non parcheggi a ore pensati solo per dare ai genitori la possibilità di andare a lavoro, come ci spiega Isabella Erlinger, coordinatrice pedagogica da 25 anni e attualmente a capo di 3 ricreatori, Lucchini, Anna Franchi e Collodi. Ricrestate e centri estivi però sono diversi. I ricrestati sono gestiti direttamente dal comune e accolgono poco meno di 2.300 bambini al mattino fino alle 14.30 senza servizio mensa. Danno lavoro a 143 educatori di ruolo a cui si aggiungono i 49 assunti per l'estate. I centri estivi invece sono appaltati alle cooperative, accolgono 5.000 bambini suddivisi in asilo nido, materna e scuola primaria dal mattino al pomeriggio. Entrambe le realtà riescono a coprire il 60% delle richieste. Il neo assessore comunale all'educazione, Maurizio De Blasio, fa sapere di voler lavorare in continuità con i suoi predecessori, garantendo la accessibilità al servizio con prezzi che non superano i 22 euro a settimana per i ricrestate, calcolati in base all'ISEE delle famiglie. L'assessore raccoglie anche l'appello delle famiglie con figli disabili rappresentate dall'Associazione Bambini di Marco Cavallo affinché anche nei ricrestate venga dato in futuro un punteggio per le certificazioni 104, così come avviene nei centri estivi, e garantire così il posto a quei bambini che faticano spesso a trovare accoglienza nelle realtà private. Trieste, Francesca Terra Nova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Urta un cinghiale e l'auto prende fuoco. È successo all'auto che nel cuore della notte non è riuscita ad evitare l'impatto con un animale mentre percorreva la variante di Mariano del Friuli. Sotto shock gli occupanti della vettura, controllati sul posto dai sanitari inviati dalla SORES. Ancora cronaca, continua l'operazione coordinata tra Polizia Locale di Trieste e Ater contro le occupazioni e gli allacci abusivi negli alloggi dell'Ater, appunto. Le attività di controllo sono supportate da ACEGAS APS AMGA. Qualche giorno fa le verifiche sull'uso illecito degli immobili e sull'uso abusivo dei servizi elettrici avevano già interessato una decina di immobili nel territorio comunale. Gli agenti avevano sorpreso in quel caso un trentenne che aveva occupato abusivamente un appartamento allacciandosi senza autorizzazioni alla linea elettrica. Evidenziati anche altri diversi danneggiamenti ed imbrattamenti della proprietà. L'uomo è stato denunciato per invasione di terreni, danneggiamento, imbrattamento e furto aggravato. Siamo ora allo sport. Il calcio. È arrivata nella notte tra lunedì e martedì, dopo una due diligence durata mesi, la conferma dell'accordo che porta la Triestina Calcio nelle mani del fondo statunitense LBK Capital. Con questo passaggio LBK ha acquisito il 100% delle quote della società di proprietà di Atlas Consulting, che poco più di un anno fa le aveva acquisite dalla famiglia Biasin. Oggi, ha confermato il direttore generale Giuseppe Daniello, è stato depositato l'atto notarile e contestualmente si è dimesso il consiglio di amministrazione della società. Il nuovo amministratore unico sarà il 36enne Benjamin Lee Rosenzweig, nato ad Atlanta, che ricopre diversi incarichi di vertice per conto di fondi di investimento e che dovrebbe arrivare a Trieste per presentare il suo progetto nel weekend. Ora uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo è da sereno a variabile sulla regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 25 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi, a Gorizia 24 gradi, a Udine 22, a Pordenone 21 gradi, a Tolmezzo e Tarvisio 21 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 16, a Sappada 17 gradi, sul Monte Zoncolan 15 gradi, sul Monte Lussari 13. Sulla costa a Grado 24 gradi, a Lignano 23 gradi, temperatura del mare nelle due località 26 gradi. Queste invece le previsioni. Il tempo rimane incerto. Nelle prossime ore il cielo sarà probabilmente da poco nuvoloso a variabile, con meno copertura nuvolosa sulla costa. Saranno possibili rovesci sparsi e qualche temporale, venti deboli di brezza. Per domani cielo variabile con maggiore nuvolosità in montagna. Probabili rovesci temporaleschi e piogge sparse, specie al mattino. Su pianura e costa soffierà vento moderato da nord-est, miglioramento dalla sera. Considerazioni sul sistema sanitario tra ragione e ragionevolezza. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia. È questo il titolo del volume di Franco Dalmas e Piero Cappelletti, dedicato alle sfide che deve affrontare il sistema sanitario e in particolare quello regionale. Il libro sarà presentato questa sera a Pordenone alle 18.15 all'Hotel Moderno, in un evento moderato dai direttori del Gazzettino Roberto Papetti e del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. La sfida principale è quella di coniugare la sostenibilità del sistema con le cure per tutti, spiega Dalmas. Sentiamolo. Il libro affronta un tema fondamentale che è il diritto alla salute, sancito nella Costituzione, l'unico vero e proprio diritto, perché la Repubblica riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo nel tutela dell'interesse collettivo. Oggi questo diritto com'è? Dopo 3 anni di pandemia e le difficoltà che tutti noi conosciamo, una gestione tutto sommato positiva qui in Friuli Venezia Giulia, ciò che è stata l'esperienza pandemica, è stata una gestione vigile e attenta, però ci troviamo davanti ad un sistema che ha delle difficoltà nella sua sostenibilità sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista praticamente della efficacia clinica. E questo perché? Perché evidentemente si investe in sanità forse non abbastanza. Il libro affronta anche la questione del ruolo del privato nel sistema sanitario? Il problema è come garantire le cure a tutti. Ecco, da questo punto di vista la Costituzione dice: se si curano, cure gratuite agli indigenti. Domanda: chi sono gli indigenti oggi? Non serve essere indigenti. Il problema è che chi entra ed è a contatto nell'accesso al sistema sanitario incontra difficoltà, attese infinite, le difficoltà delle prenotazioni, tutto ciò che ne consegue. La sfida è quella dell'attuazione dei principi del decreto ministeriale 70-2022, della cosiddetta medicina territoriale, per rendere un sistema più vicino e effettivamente fruibile dai cittadini. L'invecchiamento della popolazione che sfida pone al sistema sanitario? La sfida è sempre quella della sostenibilità finanziaria. È possibile, domanda, un sistema con one single payer, cioè un unico pagamento che è quello della fiscalità generale, o è necessario anche metterci una gamba privata? Sì, necessario, però garantiamo, preserviamo più che è possibile un sistema che sia, come dire, universale e che sia equo. Ancora una notizia, Alessandro Crestani è nuovo direttore della struttura di urologia dell'ospedale di Udine, specializzato nel settore della chirurgia urologica oncologica e della chirurgia mini-invasiva, laparoscopica e robotica. Vanta particolare esperienza in alcuni campi strettamente specialistici come l'intervento di asportazione e ricostruzione della vescica, la chirurgia prostatica e la chirurgia conservativa del rene. E all'Università di Udine si studia come contribuire a migliorare le difese naturali delle fragole coltivate, studiando il ruolo di un particolare lievito, un microorganismo che cresce sopra le fragole selvatiche, le cosiddette fragoline di bosco, che sono diffuse in tutta Europa. È proprio questo l'obiettivo di un progetto biennale che l'Università di Udine sta conducendo insieme all'Università di Scienze Agrarie di Alnarp in Svezia. La ricerca è promossa dalla Fondazione Carl Triggers di Stoccolma. L'Ateneo Friulano lavora al progetto con il gruppo di patologia delle piante del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, coordinato da Alessandra Di Francesco. Lo scopo finale è quello di selezionare i migliori ceppi da poter proporre come principio attivo di bioformulati da applicare in agricoltura in alternativa all'utilizzo di prodotti chimici. Torniamo ora allo sport, perché siamo in grado di proporvi il servizio sull'Udinese, che riparte da Federico Balzaretti, nominato nuovo responsabile dell'area tecnica. Questa mattina allo Stadio Friuli la presentazione dell'ex difensore azzurro. Federico Balzaretti va veloce anche nel suo ruolo di dirigente sportivo. Costretto a lasciare la carriera da calciatore troppo presto, a 41 anni la chiamata dell'Udinese, dopo l'esperienza alla Roma e al Vicenza, rappresenta un nuovo punto di partenza importante. Federico Balzaretti, responsabile area tecnica Udinese Calcio. Una crescita importante, è un bel salto, è un bello step. Trovo un club strutturato al quale sicuramente porterò tutto quello che è il mio bagaglio, ma riceverò anche tanto, perché è un club che ha una struttura, che fa calcio in maniera eccezionale da tantissimi anni. Il mercato del club friulano guarda avanti all'attacco Lorenzo Lucca, 23 anni, dal Pisa, dopo aver vestito la maglia dell'Ajax, è il giovane su cui punterà l'Udinese, ancora Balzaretti. È un attaccante che ha comunque delle caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa, stiamo provando a portare avanti la trattativa, non è ancora definita, ci stiamo lavorando, siamo fiduciosi che si possa, insomma, portare avanti e chiudere in maniera positiva nei prossimi giorni. Balzaretti sarà direttore dell'area tecnica, ma non sarà da solo nel suo ruolo dirigenziale, sarà affiancato da Francesco Vallone. È una persona molto importante per me, di grandissima competenza, diversa da un punto di vista caratteriale, diversa per competenze, quindi siamo molto complementari. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E proseguiamo ora con alcuni appuntamenti in calendario. Oggi prima proiezione in Friuli Venezia Giulia per L'ultima via di Riccardo Be, documentario vincitore del premio del pubblico come miglior film di alpinismo al Trento Film Festival del 2023. Il lavoro sarà proiettato al Cinema Nazionale di Trieste alle 20:30 alla presenza dell'autore Emanuele Confortin. Cinema Zero porta la magia del cinema nel verde della campagna, a Valvasone Arzene, nella cornice dell'azienda agricola Casato Bertoia. Alle 21 la proiezione di Un paese di primule e caserme di Diego Clericuzio, distribuito dalla friulana Tucker Film. E nell'ambito dell'estate Codro e Pesa, alle 21 in piazza Garibaldi sotto il campanile Vino e Libertà, Angelo Floramo dialoga con Martina Del Piccolo alla fisarmonica Paolo Forte, a cura del caffè letterario Codro e Pesa. E a Rimanzacco, all'Auditorium De Cesare, serata con Marco Milanese, presentazione del libro Volare le montagne alle 20:45. E dopo gli applausi di ieri, Zucchero risale questa sera sul palco per il secondo concerto in Piazza dell'Unità a Trieste, uniche due date nel nord-est del nuovo tour, in cui Fornaciari è accompagnato da una band internazionale per una scaletta in cui sono inseriti tutti i suoi successi. Porte aperte al pubblico alle 19 in attesa del live che inizierà alle 21:30. Sentiamo intanto com'è andata ieri sera. Si balla e si canta sulle canzoni più pop come Baila e Vedo Nero. L'atmosfera si fa più soft su brani come Dune Mosse. Zucchero riempie Piazza Unità a Trieste di quasi 4.000 spettatori, seduti in una scenografia come poche. In tanti sono arrivati da fuori Trieste, soprattutto dall'Austria e dalla Slovenia, dove il cantatore è molto amato. Are you a fan of Zucchero? Yeah, yeah. My vibe is crazy on Zucchero. I like music from Zucchero. Da dove venite? Da Firenze. Siamo di Austria, di Filacco, sei amici alla Piazza Unità per il Zucchero. Molti sono stati anche i curiosi che si sono fermati sulle rive ad ascoltare qualche brano, seppur da lontano. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Con il primo appuntamento dal titolo Operazione Tango, che andrà in scena alle 21 nella corte di Palazzo Morpurgo a Udine, parte oggi la 25esima edizione del Festival di Musica Nei Suoni dei Luoghi, un calendario composto da ben 34 concerti in alcuni fra i luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, ma anche di Slovenia e Austria, pensato per valorizzare anche i luoghi al di fuori dei consueti circuiti, come racconta la direttrice artistica Valentina Danelon, che ci anticipa il programma di questa sera. Ci sarà sul palco Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneonista e fisarmonicista di fama internazionale, accanto a una soprano uzbeka e al quintetto d'archi dei Virtuosi di Kiev, e ciliegina sulla torta anche due ballerini di tango, il Tango Feliz di Bologna, che accompagneranno con i loro passi di danza alcuni dei brani che verranno presentati. Il fil rouge è proprio il tango, ma come dice il titolo del progetto, che si chiama Operazione Tango, coniuga, diciamo, il tango anche all'opera italiana. Che cosa prevede poi il programma del festival e quali sono le chicche di quest'anno? Il programma di quest'anno sicuramente è molto vario, ci sarà molto spazio per i vari generi musicali, quindi passeremo appunto al tango, passeremo per la musica classica, avremo protagonisti anche per la prima volta sul palco e anche ospiti che sono già stati da noi, ad esempio il 20 di agosto tornerà Enrico Bronzi a trovarci con un ensemble di violoncelli, quindi sicuramente un appuntamento particolare a Cervignano del Friuli. Il 5 settembre invece avremo un quintetto d'eccezione con Ilia Grubert al violino, Silvia Chiesa al violoncello, per esempio, insieme ad altri artisti di fama, il 5 settembre a Udine. E poi nel mezzo avremo anche cantautorato italiano con un concerto a San Giovanni al Santisone con Domenico Imperato, vincitore del premio Testa per il cantautorato, appunto, e poi altri generi musicali mix, tutti da scoprire. E tanto spazio anche per i giovani. Nei Suoni dei Luoghi è un festival diffuso in tutta la regione. Perché è importante arrivare con queste proposte anche nei piccoli paesi della nostra regione? Beh, è importante innanzitutto per far scoprire anche questi piccoli paesi e poi spero che anche per i paesi e per il pubblico appunto decentrato magari dalle grandi città possa essere una possibilità di sentire della grande musica. Per la prima volta in Italia una lingua minoritaria, il friulano, sarà utilizzata nelle scuole per l'insegnamento del gioco degli scacchi. Grazie al supporto linguistico fornito da Arlef, la scuola di scacchi Vera Mencik di Pordenone ha preparato una pubblicazione in marilenghe con le principali e non solo regole di questo antico gioco. Il progetto sarà presentato alle 21 a Tarvisio nel centro culturale Julius Kugi, a margine del campionato italiano giovanile di scacchi. Ancora alcuni appuntamenti per i più piccoli. A Lignano Sabbia d'Oro inaugura oggi in Biblioteca Comunale la mostra Tra le Pagine, una passeggiata dentro ai libri di Beatrice Alemagna, uno dei nomi più importanti del mondo dell'illustrazione di libri per ragazzi, artista apprezzata e pluripremiata a livello internazionale. Secondo appuntamento con Verdi d'Estate, la rassegna estiva del Teatro Verdi di Gorizia, quest'anno dedicata alle famiglie. Gnam, ma quando si cresce nonna, è lo spettacolo che Ullalà Teatro metterà in scena alle 20:45 a Palazzo de Grazia. A Trieste, quinta giornata di Shorts IFF alle 17 al Teatro Miele e Corti, della categoria Shorter Teens, dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, che punta a far conoscere linguaggi e tecniche del cinema breve ai giovanissimi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Trieste e Gorizia. A Spilimbergo, nel cortile di Palazzo di Sopra in piazzetta Tiepolo, alle 21 Comune e Orto Teatro organizzano per il teatro C'era una volta, spettacoli estivi per grandi e bambini, la rappresentazione Storie dei cieli del mondo di e con Fabio Scaramucci e musica di Giorgio Rizzi. Sarà inaugurato questo pomeriggio alle 17 il mercato agricolo di Campagna Amica Barcis. In piazza Lungolago saranno 9 le aziende che proporranno prodotti del territorio a chilometro zero. Il mercato sarà in programma tutti i mercoledì fino alla fine di agosto, un'iniziativa che ha anche l'obiettivo di far conoscere e promuovere in un'area di villeggiatura la migliore offerta agricola del territorio. E prima di chiudere, una notizia, perché è in corso l'estrazione del calendario del prossimo campionato di Serie A, che inizierà il 20 agosto e nella prima giornata l'Udinese. Questa l'estrazione ospiterà allo stadio Friuli la Juventus, mentre il Napoli, campione d'Italia, giocherà a Frosinone. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale, in regia Paolo Cassano e Carlo Morello. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia. Da Daniele Lettic e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.